Il fine settimana di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ci sarà il Prefestival, una preparazione in vista del Festival della casa editrice dei Via Prodi che si terrà poi a settembre. E oggi parleremo di questi eventi con Francesco Bedani della libreria.input. Ciao Francesco. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte. Allora, vorrei partire dal sottotitolo del Prefestival che è Daremo aria a queste stanze. E quindi ti volevo chiedere innanzitutto quali sono i propositi del Prefestival e gli argomenti che saranno trattati in questi giorni. Esatto, come dicevi tu, il sottotitolo Daremo aria a queste stanze in un certo senso già inquadra e dà senso a quello che sarà il Prefestival di questo fine settimana, che ricordo si terrà in via del Pallone numero 8 al Pallone, spazio che ci è stato una bellissima struttura che ci è stata concessa dall'ICS di Bologna, che ringraziamo e che ci ha inserito all'interno del loro cartellone estivo di iniziative. Come dicevo appunto, il sottotitolo vuole proprio insomma dare senso a quello che sarà il Prefestival. Dopo 2 anni di pandemia, all'interno di una crisi senza fine, fino di una guerra che ancora non si insomma che traccia, che tocca da vicino le nostre vite, vuole tentare di ricollegare i fili di un discorso, di un pensiero critico che pensiamo in questa fase, negli ultimi tempi, abbia sofferto una frantumazione della capacità proprio di essere prodotto, una frantumazione degli spazi e delle capacità. Quindi questo Prefestival, che come dicevi anche tu, è un antipasto, se vogliamo, del Festival che si terrà invece il 23, il 24 e il 25 settembre sempre qui a Bologna, tenta però appunto antipasto, ma tenta e penso sia in grado di camminare sulle proprie gambe, si propone appunto come elemento in controtendenza a questo che rileviamo come desertificazione, comunque frantumazione, frammentazione della produzione di pensiero critico. Il Prefestival è poi anche per noi un primo banco di sperimentazione sia di questa indicazione, ma anche di una condensazione, diciamo, di una costruzione, di una rete che all'interno di questi obiettivi che dicevo si sta costruendo. Il Prefestival infatti di questo fine settimana sarà organizzato sia dal punto input di Bologna che dalla casa editrice, la storica casa editrice di Riva Prodi, e dalla rivista online Macchina. Quindi insomma questo un po' per inquadrare quello che sarà il Prefestival di questo fine settimana. Bene, posso chiederti nello specifico come, certo, si strutturano queste appunto 3 giornate che, come hai ricordato tu, sono negli spazi di Il Pallone e certo, in cui so che appunto saranno presentati 3 nuovi libri della casa editrice. Esattamente. Il Prefestival inizierà venerdì 3 giugno alle ore 18 con una presentazione a cura del punto input e alle 18:30 ci sarà la prima presentazione dei libri che citavi. Il primo sarà Una vita liberata di Roberto Ciccarelli, che diciamo possiamo dire indaga un po' quella che possiamo definire non solo la crisi sociale ed economica del capitalismo, ma possiamo dire una crisi di civiltà forse che sta vivendo la società capitalistica occidentale di certo. Appunto con l'autore Roberto Ciccarelli discuteranno Ubaldo Fadini e sarà coordinato da Francesca Ioannilli. Sabato 4 invece le presentazioni saranno 2, la prima alle 17:30 del libro Lo schiavo americano dal tramonto all'alba di George Orwell, un libro uscito all'inizio degli anni 70, ripubblicato quest'anno da Riva Prodi, che inseriva appunto nella scena dei movimenti americani per il Black Power, non solo ricostruisce la storia della comunità afroamericana e della questione dello schiavismo, ma attraverso questa genealogia di fatto dialoga con temi attualissimi, attuali negli anni 70 e attuali anche oggi, il tema politico del razzismo. A discuterlo saranno Bruno Cartoni, che appunto ha curato la prefazione della prima edizione e anche quella di questa ripubblicazione, e Anna Curcio. Alle 18:30 poi la presentazione di Contronature, un lavoro collettaneo sul tema dell'ecologia politica, che tenta anche in questo caso di ripoliticizzare quelli che sono di fatto i temi, i termini della transizione ecologica, che oggi insomma sono di fatto ammantati di un greenwashing, possiamo chiamarlo così. Saranno a presentarli i curatori Matteo Bronzi e Caterina Ciarlini, con alcuni autori dei testi, e domenica 5 altri 2 incontri, quello delle 17:30 una tavola rotonda sul tema della guerra coordinato da Veronica Marchio con Maurizio Lazzarato, Cristian Barazzi, Giuseppe Molinari e Gigi Roggero, che si propone di trattare trattare il tema della guerra, oggi così attuale, ma diciamo fuori dagli schemi della cronaca ora per ora, cui insomma attraverso talk show e giornali siamo sempre più abituati, tentando di avere uno sguardo più lungo, più ampio, che si interroghi sulle questioni certamente geopolitiche, ma anche quelle che toccano insomma tutti gli aspetti della nostra vita. Infine alle ore 19 presenteremo insieme a Deriva Prodi, Macchina, Punto Input e la rivista Comware, appunto il Festival di Settembre, che come dicevo si terrà il 23, 24 e 25 qui a Bologna, che sarà incentrato sulla figura di Nanni Balestrini, comparso 3 anni fa, e sarà anche la prima occasione grande, importante, per ricordare questa figura e insomma addentrarci nei suoi variati ambiti in cui si è attivato durante la sua vita. Ci saranno ospiti di caratura non solo nazionale ma anche internazionale, e quindi cercheremo di presentare anche quello che sarà il senso di quel Festival di Settembre. Se posso rubare ancora 30 secondi, poi ricordo che in tutte le 3 giornate, la prima appunto dalle 18, quando venerdì 3 giugno dalle 18 quando verranno diciamo aperte le porte, e poi sabato e domenica dalle 16 fino a chiusura, sarà disponibile la quasi totalità del catalogo di Deriva Prodi con prezzi scontati, e per tutti e 3 giorni sarà possibile anche assaggiare diciamo così una ampia scelta di vini di alcuni produttori diciamo indipendenti di vini naturali, l'uno da Alba in Piemonte, l'altro da Montalcino in Toscana, che penso che siano di fatto già garanzia diciamo di una certa qualità. Quindi invitiamo, oltre a partecipare alle presentazioni e dibattiti, anche a venire per bersi un bicchiere di vino e cambiarci anche 2 chiacchiere, sempre al Pallone numero 8. Bene, grazie mille, sicuramente degli eventi molto interessanti, e quindi grazie Francesco per averceli presentati. Grazie a voi.